Un capolavoro nel capolavoro, già ne abbiamo parlato per la scorsa stagione. La montagna è incantata, Archivio Z, qua in coppia e presenti per questa presentazione al Teatro Arena del Sole. Buongiorno Enrico, buongiorno Gianluca. Buongiorno. Allora, c'è tanto da dire già di per sé e per un lavoro veramente, come ho definito, olistico. Questa volta la sede, il palcoscenico è ben diverso. Il primo motivo di conversazione va da sé, appunto, come viene tradotto in questa intanto importante maratona, che ribadisco sarà il 22 e il 23 marzo, Poi daremo anche gli orari e tutte le disposizioni logistiche. Però intanto Enrica com'è stato riportare tutto ciò in un contesto ben diverso? È stato come rifare la regia. Noi abbiamo questo enorme patrimonio di parole meravigliose scritte da Thomas Mann, che appunto alla Futa risuonavano in un modo, quando abbiamo portato le prime due parti l'anno scorso a Rezzoli risuonavano negli ambienti dell'antico ospedale, nella parte monumentale del Rezzoli, ancora in un modo differente, e adesso finalmente approdano sul palcoscenico di un meraviglioso teatro della nostra città, dove assumono ancora una volta un significato ancora diverso, sotto certi aspetti ancora più ampio, e insomma noi ci siamo dovuti rimettere al lavoro. È quasi un mese che siamo al lavoro per la ripresa di tutte e tre le parti, per farle diventare una parte unica, perché poi anche quello non è scontato. Tre spettacoli che hanno debuttato in tre anni diversi devono adesso diventare un corpo unico, con ovviamente delle pause, per cui tra una parte e l'altra ci saranno delle belle pause lunghe, ma appunto diventerà un corpo unico. Questo corpo unico è di fatto una nuova regia ed è finalmente raggiungere in 7 ore i 7 anni del romanzo di Hans Castorp, della prigionia di Hans Castorp al sanatorio Berghof. Quindi questo è. Gianluca, a questo punto ti chiedo di portare una linea d'incontro tra questo ossimoro, che indubbiamente sarà motivo di crescita soprattutto per ascoltatrici e ascoltatori o per chi sarà a teatro e chi ha avuto la possibilità di ammirare il vostro lavoro, cioè è una sintesi che però va ad ampliare. A che punto, Gianluca? Va ad ampliare perché il teatro in qualche modo ti consente di concentrarti. Siamo in una camera bianca, in realtà è come se ci fosse una pagina bianca ancora da scrivere, così sarà la scenografia, sarà un enorme spazio vuoto bianco su cui si andranno a depositare queste parole, come diceva Enrica, una cattedrale, una montagna appunto di parole, e questo in teatro ti consente di avere una sorta di catarsi, perché nell'arco di 7 ore si arriverà quasi a un rito collettivo, come avveniva nell'antica Grecia, in cui si andava a teatro, si stava molte ore insieme senza distrazioni, senza interferenze, e ci si concentra su questa pagina bianca. Che cosa avviene su questa pagina bianca? Avviene sicuramente il viaggio di un ragazzo che deve diventare adulto, ed è una storia quindi archetipica, cioè quella di Pinocchio e quella di tanti altri protagonisti della letteratura. È una storia semplice, ma nello stesso tempo che riguarda tutti, e questo ragazzo però finirà per scontrarsi con la storia, e la storia, come ci insegna anche l'attualità, è terribile, perché ti mette di fronte a degli interessi più grandi, e Hans finirà in una trincea della Prima Guerra Mondiale. Questa è una storia amara, una storia molto triste, però che ci fa attraversare tanti campi del sapere, la filosofia, la politica, la scienza. Hans attraverserà tutti questi campi incontrando i vari personaggi all'interno del sanatorio. Ci sembra una storia molto bella da raccontare oggi. I protagonisti hanno meno di 30 anni, penso che molti giovani possano riconoscersi in questi stessi personaggi di 100 anni fa. E una cosa molto interessante che porteremo su questa pagina bianca del palcoscenico dell'Arena del Sole saranno dei filmati d'archivio, quindi non ci sarà più la Futa, non ci sarà più il Rezzoli, ma ci saranno dei filmati inediti della Fondazione Home Movies, archivio dei film di famiglia che ci ha aiutato nella ricerca, filmati degli anni 30 che ci porteranno in un viaggio onirico nelle Alpi, viaggi in treno, paesaggi invernali, tormente e anche immagini della Prima Guerra Mondiale. Quindi sarà un ulteriore viaggio nel cinema, nella pellicola. E si aggiunge un valore importante alla vostra espressione che già abbiamo ammirato in diverse micro e macro sensazioni per uno spettacolo che nella stagione precedente appunto ho definito unico e speciale. Grande curiosità, ma sicuramente anche grande e importante il messaggio per il momento che stiamo vivendo, come certi capolavori, poi Thomas Mann, Montagna Incantata, risultino tutti i tempi. Beh, che dire, io spero di incontrarvi presto a teatro e vi ringrazio per questa anticipazione per Radio Città Fujiko. Allora, grazie di cuore. A te.